Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko 103.1 MHz, modulazione di frequenza stereofonica da Bologna. Ultima trasmissione dell'anno per quel che riguarda Città Fujiko Live Club, che inizia come ogni mercoledì o quasi all'incirca alle 10.30. Siamo appunto alla fine dell'anno e poi ci sarà nella prima trasmissione dell'anno nuovo del 2025, ci sarà il best di quest'anno, come oramai è una tradizione assodata per quel che mi riguarda, ma intanto andiamo a vedere di concludere l'anno nel migliore dei modi. E anche in questa ultima trasmissione dell'anno ci sarà l'inizio con una novità che è un po' particolare, anzi direi un bel po'. Primo, perché non la troverete nei negozi di dischi. Secondo, perché è una cosa italiana che effettivamente, per quel che mi riguarda, è una cosa abbastanza particolare. Non starò a spiegare di questa mia idiosincrasia per i test in italiano, ma è così, insomma, è un mio difetto, non ne discuto. E dicevo, non troverete questo CD nei negozi perché è allegato a un libro. Il libro si chiama Not For Sale ed è un libro che hanno scritto i fratelli Severini, che sono i due membri fondatori e sono il fulcro centrale di una grande band marchigiana che si chiama Gang, che spero conosciate e apprezziate. E i fratelli Severini, Sandro il chitarrista e Marino il cantante e chitarrista, questa Not For Sale raccontano la prima parte della vita dei Gang, che vita che si può dividere in due parti: quella che interessa appunto questo libro, la prima parte, quella con i testi in inglese, con la musica molto molto punk, molto aggressiva, molto votata al culto, diciamo così, fra virgolette, dei Clash, al quale la Gang si ispirava palesemente. E loro hanno fatto questo libro e allegato c'è un CD con uno dei loro concerti del periodo, concerto che è stato immortalato durante la rassegna 100 fiori al centro civico di Corticella, qui a Bologna, a due passi da qui, tutto il 16 marzo del 1985. Sono Gang molto grezzi, molto primordiali, diciamo così. Anche la registrazione non è che sia un granché, ma quello che si dice è un documento sonoro importantissimo per quel che riguarda la prima parte della vita della band dei fratelli Severini. Ce l'andiamo subito ad ascoltare, lo ripeto, 16 marzo 1985, centro civico Corticella, Bologna. Il pezzo che ho scelto per voi si chiama Badland, loro sono Gang. E questi erano i Gang in quel di Bologna il 16 marzo del 1985. Ripeto, il libro si chiama Not For Sale, lo potete tranquillamente, anzi forse no, perché magari è esaurito, erano solamente, mi sembra, poche copie, 500 copie o cose del genere, e si potevano preordinare oramai da diverso tempo, ma credo che qualche copia ci sia sicuramente. Andate sul sito the-gang.it e ne saprete di più di quello che vi sto dicendo io. E ho già ripetuto diverse volte che questo dischetto, che dura poco, fra parentesi, 39, anzi addirittura 29 minuti, è stato registrato qui a Bologna, nella nostra ridente cittadina. E questo mi porge il destro, in quest'ultima trasmissione dell'anno, di ascoltarci delle registrazioni che sono state effettuate nella nostra città in concerto, naturalmente. Se fuori a giocare, when you do. E cominciamo con quella che probabilmente è la più antica. Siamo nel 1988 e Tuxedo Moon, grande band proveniente da San Francisco, festeggiano i 10 anni di attività con un tour che li ha portati appunto anche a Bologna. Loro sono tuttora attivi dal 1977, ma con diverse interruzioni, anzi parecchie interruzioni oserei dire, e da quel tour fu tratto un doppio vinile, che è quello che ci andremo ad ascoltare, che si chiama 10 Years in One Night, appunto 10 anni in una notte, doppio long play che è stato registrato in diverse località e quindi in diverse epoche. Ci sono due brani che sono stati registrati al Palazzo della Cultura dei Congressi qui a Bologna il 28 marzo del 1988. Il primo che vi propongo, anzi il brano che vi propongo, poi magari vedrò se aggiungere anche il secondo, è il brano che si chiama The Cage, però prima vorrei porre la vostra attenzione sul secondo brano che verrà, almeno sull'introduzione che David Thomas, che poi vi dirò chi è, fa, che appunto testimonia che è registrato a Bologna. Intanto però ci sono i Tuxedo Moon con The Cage. Girl from Poland, she's in Russia. This is the concert from March 3rd, 1981 in Bologna. E questi erano i Pere Ubu, una musica un po' particolare, forse non propriamente mattiniera, ma comunque ve la siete beccata. Era la title track del loro primo album, album che uscì nel 1978, che si chiama The Modern Dance. Il tutto registrato al Teatro Medica qui a Bologna, come ha detto lo stesso David Thomas, che è il cantante leader della band, che è tuttora attiva, ma lui, il cantante, appunto David Thomas, è rimasto l'unico membro originale. Diciamo che questo album, che si chiama 390 Degrees o Simulated Stereo Volume 2, è semi-ufficiale, non è ufficiale, non è completamente ufficiale, è approvato dalla band ma non è stato pubblicato dalla casa discografica dell'epoca. Comunque è sempre molto interessante e come avete sentito, una musica un po' particolare che seguiva i Taxi to Moon in precedenza. E dopo queste due cose un po' strane, andiamo invece con qualcosa di più conosciuto, di più noto e di più famoso. Siamo Siamo al 14 settembre del 2006 al Pala Malaguti e arrivano i Pearl Jam. Fra parentesi, in apertura c'erano in My Morning Jacket che portavano la serata musicale a livelli altissimi. Pearl Jam, che non credo non abbia bisogno di presentazioni, sono venuti tante volte in Italia, sempre con grande successo, addirittura a Imola un paio di anni fa, forse tre, che fecero non so quante migliaia, decine di migliaia di persone. E 20 è una doppia antologia con parecchi brani live inediti, uno dei quali appunto è stato registrato nella nostra città il 14 settembre del 2006. Il brano si chiama Indifference, loro sono Pearl Jam. must I tell you what to do? Smiling, hiding, it comes to me as no surprise. Hiding, girl, you're lying. I can see the look in your eyes. You got the love, you can stay. You won't live here, yeah. Word every year, I can't do without it. What you give me, You got the love, you can stay. You won't live here. Thank you. Finale di concerto bolognese per Mr. David Hudson, un personaggio che aveva tutte le potenzialità per esplodere, per essere un grande cantante, aveva una voce fantastica, una presenza scenica incredibile, ma era completamente pazzo, e questo ve lo posso dire per esperienza personale, conoscendolo, avendo assistito ai suoi concerti e avendo partecipato in sede di produzione alla realizzazione di questo album che si chiama Live in Italy, che è stato registrato al Ruvido Club, chi si ricorda del Ruvido Club, qui a Bologna, il 16 febbraio del 1995, a seguito di un mini tour italiano che lo portò ancora a Roma e poi qui a Bologna. E essendo appunto stato coinvolto nella realizzazione di questo album, ne ho alcune copie in cantina, se vi può interessare le vendo per poco. Il pezzo naturalmente è un classico del rhythm and blues, come quasi tutti i classici sono presenti in questa scaletta, si chiama You Got the Love, lui, lo ripeto, si chiama David Hudson. Ci sono gruppi, prima voglio dire un paio di parole sulla città musicale Bologna. Essendo oramai di una certa età, ho visto tantissime cose, tantissimi locali aprire, chiudere, trasformarsi. E quindi ne voglio ricordare qualcuno. Innanzitutto quello che secondo me è stato il top, c'erano concerti tutte le settimane, a volte anche un paio di volte alla settimana, si chiamava Kubo, è stato un periodo veramente denso di buona musica, anche perché praticamente tutti i concerti erano veramente di caratura notevole. Poi naturalmente abbiamo l'Estragon, che prima era vicino alla Fiera, adesso invece è a Parco Nord. Abbiamo avuto il Ruvido, che per un certo periodo ha ospitato dei bei concerti. L'Isola nel Cantiere, poi c'era la Fabbrica, che magari ci ascolteremo una registrazione effettuata in questo locale più avanti, e tanti altri, a parte Palazzarita, il Pala Malaguti, l'Unipol Arena, chiamateli come volete. E quindi è stato, nel corso degli anni ci sono stati veramente dei gran bei concerti in questa nostra città, che mi sembra che ultimamente si sia un po' addormentata, per meglio dire, ad essere onesti, ci sono diversi concerti, anzi parecchi concerti, però sono cose che non rientrano nella mia sfera musicale, per cui niente, fate finta che non abbia detto niente. Ci sono delle band che hanno un successo planetario che sinceramente non capisco, però come diceva quel tale mi adeguo. Una di queste si chiama Muse, li vedemmo proprio al Palazzarite in un concerto ormai tantissimi anni fa, e già allora erano famosi, adesso lo sono ancora di più. I Muse hanno pubblicato a suo tempo, sto parlando, vedo se riesco a trovare la data, ma non la trovo, la data di pubblicazione, perché la registrazione è del 2001, appunto fece un paio di singoli con dei brani live registrati all'Independent Days Festival qui a Bologna, e tutto fu registrato dal network di Radio Popolare, e infatti sentirete una voce un po' fastidiosa, a dire il vero, che rimane un po' in sottofondo in questo brano, ed è la voce della speaker di Radio Popolare che disturba per qualche attimo questo brano che ci andiamo ad ascoltare. Si chiama Hyper Music, il tutto registrato a Parco Nord qui a Bologna il 2 settembre del 2001. Loro sono Muse. We'll be right back. Do you know what's so funny? Britain, Germany, Italy, France, all of Europe, they all go, shall we, shall we, shall we, shall we? I fucking want to be a part of you. I want to be a part of Italy, France, Germany, Sweden, if the kids are united. Siamo rimasti al Parco Nord, naturalmente qui a Bologna, per il Live in Bo Festival che vedeva in scena il 15 giugno del 1997 gli Sham 69 di Jimmy Parsi, grande band punk, una delle prime band punk ad avere un certo successo, una certa rinomanza a livello internazionale. Loro sono stati attivi dal 1975 al 1979 e poi Jimmy Parsi ha riformato la band, visto che era lui il main leader, diciamo, già all'inizio della carriera degli Sham 69. Il brano è un inno generazionale, oserei dire, si chiama If the Kids Are United, e se fosse vero sarebbe veramente un gran bel andare. Back home, Da diverso tempo, per meglio dire, parecchi gruppi offrono la possibilità di scaricare o acquistare CD con le registrazioni dei vari concerti effettuati nel corso dei vari tours che le band e gli artisti fanno. Hanno cominciato i Pearl Jam naturalmente, e poi a seguire sono stati tantissimi, posso citare gli Who, Gob Mule, che hanno delle registrazioni effettuate qui a Bologna che purtroppo per ragioni di tempo non riesco a farvi ascoltare. Ci sono anche i Fugazi, registrati in quel della fabbrica che vi dicevo in precedenza. E invece voglio andare a concludere questa prima parte della trasmissione con un grande personaggio che è stato qui in città diverse volte. Lui si chiama Peter Gabriel, spero e credo non abbia bisogno di presentazione, al di là del fatto che è stato coi Genesis fino al 75, eccetera, eccetera, eccetera. Il suo Back to Front Tour l'ha portato all'Unipol Arena il 21 novembre del 2014 e se la memoria non mi inganna deve essere l'ultima volta che è venuto qui in città. Potevo scegliere tantissimi brani, ma dopo tutto questo chiasso fatto prima dai Muse e poi dagli Sham 69, ho scelto invece un brano molto molto tranquillo che si chiama Don't Give Up, che è uno dei grandi classici famosissimi di Peter Gabriel. Ci sarà forse un'altra occasione per ascoltarci registrazioni effettuate in quel di Bologna. Per il momento l'ultima è quella appunto di Peter Gabriel, 21 novembre 2014, Unipol Arena di Bologna. Worry too much. It's gonna be on to another town, trying hard to settle down. For every job, so many men, so many men, no one needs. Don't give up, unless you have friends. Seconda parte di Città Fujiko Live Club, ultima Città Fujiko Live Club dell'anno. Siamo al 18 dicembre e seconda parte che è iniziata con la novità che vi propongo quest'oggi. Ho già detto che è una novità un po' particolare, nel senso che non la troverete nei negozi né online, ma la troverete allegata a un libro che si chiama Not For Sale, che potete ordinare sul sito della band che si chiama Gang, la band che ci siamo ascoltata. Il sito è the-gang.it e allegato al libro, che appunto si chiama Not For Sale, c'è questo CD che è stato registrato dal vivo alla rassegna Cento Fiori, Centro Civico Corticella, qui a Bologna, il 16 marzo del 1985. I Gang sono sempre stati molto politicizzati, molto schierati e purtroppo credo che la loro carriera ne abbia risentito, però sono veramente dei grandi. E quando si parla di Gang si parla principalmente appunto dei fratelli Severini, Sandro e Marino, che sono il fulcro, il cuore e sempre presenti nella lineup di questa band. Anche questa si chiama High for the Low, un classico sempre nei concerti della band, come all'inizio della carriera. Fra l'altro la loro carriera iniziale, come ho detto in precedenza, aveva i testi in inglese, una musica molto aggressiva, molto potente. Poi dal quarto album hanno cominciato a fare test in italiano, una musica molto molto diversa, ma sempre molto molto accattivante, molto interessante. Grande band questa dei Gang, scusate questo giochino di parole. Ma come sempre, anche nell'ultima trasmissione dell'anno, la seconda parte di Città Fujiko Live Club, arriva Ricordi Today, brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna, nel trascorrere degli anni. Ancora una volta tantissime cose, ancora una volta il criterio di scelta è quello di un brano per ogni decade. E iniziamo subito dal 1979 con una band che è sempre nel mio cuore. Si chiamavano Joy Division, venivano da Salford, che è un sobborgo, una cittadina che fa parte della Greater Manchester. Sono stati attivi dal 1976, poi hanno interrotto l'attività nel 1980 dopo il suicidio del cantante Ian Curtis, e da lì sono diventati New Order con tutta un'altra storia. Loro, Joy Division, nel corso della loro breve carriera hanno fatto un solo album ufficiale uscito mentre la band era in vita, fra virgolette, e tutti quelli che trovate sono postumi, perché anche il secondo album, Closer, è uscito che la band si era già sciolta, Ian Curtis era già morto qualche mese prima. E il brano che ci andiamo ad ascoltare fa parte di un album che è stato registrato a Parigi, dal titolo in francese, per cui adesso mi cimenterò, si chiama Le Bains Douches o qualcosa del genere, questo lo dico in italiano. 18 dicembre 1979, dice tutto il titolo, a parte appunto che il locale si trova a Parigi. E noi ci andiamo ad ascoltare i grandi Joy Division con uno dei loro super classici, un brano che a me piace tantissimo e che si chiama Transmission. Grande band, grande brano quello che ci siamo ascoltati, Joy Division, si chiama Transmission, il tutto registrato il 18 dicembre 1979 in quel di Parigi, in Francia, naturalmente. Rimaniamo a Manchester, o per meglio dire nella Greater Manchester. Prima con i Joy Division eravamo a Salford, adesso insieme ai Chameleons andiamo a Middleton, però rimaniamo appunto sempre nella Greater Manchester. Sono attivi dal 1981 questi Camaleonti, con diversi breaks, perché il leader ogni tanto si staccava per cercare una carriera solista, che non gli ha mai dato grandi soddisfazioni. È una di quelle band che la critica, i musicisti amano tantissimo, ma che commercialmente non ha mai avuto un grande successo, o per meglio dire non ha avuto il grande successo che hanno avuto altre bands della stessa città. E hanno fatto parecchi album live, questo è uno di quelli, e già il titolo anche in questo caso dice tutto, Live at the Gallery Club Manchester. Non dice però che è stato registrato il 18 dicembre del 1982, e non dice che vi voglio far ascoltare un brano che si chiama Things I Wish I Said, cioè le cose che avrei voluto dire. Loro si chiamano Chameleons, dal 1982. Trick this is the trick of the lights. I have to know what is real and what is illusion. Or tell me how does it feel beyond this confusion. What are the tricks of the lights? Yeah, for the tricks of the lights are there tonight, tonight. I have to know what is real and what is illusion. What time and how does it feel beyond the confusion? Does anyone know? Oh, is there anyone there? This life's an optical illusion, like other optical illusions appear. Is there anyone? Si chiamano Chameleons, i camaleonti, e il brano che ci siamo ascoltati, Things I Wish I'd Said, le cose che avrei voluto dire, che magari non ho detto, ce ne sono tantissime nella vita di ognuno di noi. Il tutto registrato al Gallery Club di Manchester il 18 dicembre del 1982. Per quel che riguarda gli anni 90 arriva un personaggio che amo tantissimo e che non solo io, e che è uno dei grandi grandi personaggi della musica di tutti i tempi. Lui arriva da Bloomfield, che è un sobborgo di Belfast, Irlanda del Nord. Si chiama George Ivan Morrison, ma tutti lo conoscono come Van Morrison, Van the Man per la precisione. È stato uno dei grandi, è tuttora uno dei grandi della musica di tutti i tempi, iniziando dal 1964 insieme a Zem. A loro si deve attribuire gloria in realtà, anche se molti non lo ricordano. Il doppio dischetto che ci andiamo ad ascoltare si chiama A Night in San Francisco ed è stato registrato nella città californiana al Masonic Auditorium il 18 dicembre del 1993. Il pezzo che ho scelto per voi è un medley, sono tre pezzi a dire il vero, ed è un medley appunto fra Van Loo's Stairway, Trans Euro Train e Fool for Your Blue for You, che formano questa putpourri, come si diceva una volta dalle nostre parti. Lui è Mr. Van Morrison, 1993, 18 dicembre in quel di San Francisco. Don't remember sometime. Love, love reaches up to the moon. This way, you ever wake up in the morning? She's about to break a day. Reach over, feel your pillow. Where your baby used to lay. And put on your crying. Like you never cried before. You even cried so hard. You give the blues to your neighbor next door. From Belfast, he's got a huge pair of lungs. His name is Brian Kennedy. Thank you. miseries. The lessons learned from history, the pattern still repeats. Never to surrender, don't you ever retreat. So how far have we really come? Till the ones who are leading us make peace their resolution. Tonight, make peace your resolution. Tonight, there's an arms race to be run, a building bigger, better, dagger-headed bomb. So let's drink to the daughters and sons, never to return to their mother's arms. Oh, not coming back. So how far have we really come? Till the ones who are leading us make peace their resolution. Tonight, make peace your resolution. Tonight. Alright. For every battle lost and won, are these the ones that we offer up? Every battle lost and won, are these the ones that we offer up? So how far have we really come? Till the ones who are leading us make peace their make peace your resolution tonight. So how far have we really come? Till the ones who are leading us make peace their resolution tonight. Make peace your resolution tonight. Abbiamo attraversato mezzo mondo e siamo arrivati in Australia insieme a un quintetto che veniva da Brisbane, naturalmente Australia stessa, e che è stato attivo dal 1989 al 2010, più una riunione estemporanea nel 2020. Loro si chiamavano Powderfinger, come il brano omonimo di Neil Young, ma facevano un altro tipo di musica, e hanno pubblicato questo These Days in prima battuta come doppio DVD, ma qualche anno dopo, un paio di anni dopo mi sembra, l'hanno poi pubblicato anche come due CD, che è quello che ho tra le mani. Il primo è elettrico, è stato registrato nel dicembre del 2003, mentre il secondo, che è quello che ci siamo ascoltati, è acustico ed è stato registrato esattamente il 18 dicembre del 2003 al Stage 11 dei Fox Studios di Moore Park a Sydney. È una band molto molto valida, quella che era Powderfinger, che aveva fatto veramente diversi album molto molto belli e tre, quattro mi sembra dal vivo, più alcune ristampe che avevano occlusi registrazioni dal vivo. Il brano che ci siamo ascoltati si chiama How Far Have We Really Come ed è registrato appunto il 18 dicembre del 2003. I've been kicking and screaming. This life is too short for me. So come on over. A questo punto passiamo al 2010 con una delle mie band preferite, uno dei grandi miei amori musicali che purtroppo mi ha un po' deluso negli ultimi anni. Vi dirò il tutto. Loro si chiamano Van der Graaf Generator, vengono tuttora da Manchester, sono formati nel 1967, c'erano un sacco di cose di Manchester oggi, non ci avevo fatto caso. E hanno avuto molte interruzioni all'ultima riunione, quella del 2005, non si sa bene se per volontà o per licenziamento David Jackson, il sassofonista e flautista della band, non è più nella band, non è più nel line up, che da quartetto è diventato un trio. La band, per chi non lo sapesse, vede alla voce Peter Hamill, che è anche una florida carriera solista. E questa mancanza secondo me è molto molto molto grave, perché reputo David Jackson una delle peculiarità del suono dei Van der Graaf, che nel caso specifico senza di lui è solamente basata sull'organo e sul piano e la chitarra di Peter Hamill. Ma questo live di Metropolis Studios London è appunto stato registrato in trio il 18 dicembre del 2010. Sono due CD più un DVD che comprendono una canzone molto lunga, che è quella con cui concluderò il 2018 in voce, diciamo così. E prima appunto però vi voglio ricordare che vi siete ascoltati Città Fujiko Live Club, un paio di ore di musica dal vivo quasi ogni mercoledì, ogni tanto scantono, e però dalle 10.30 alle 12.30 all'incirca sui 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonico appunto di Radio Città Fujiko. Poi potete ascoltare anche sul web tramite l'apposita app che potete scaricare dal sito. Ultimamente nella zona emiliana, diciamo, comunque più Bologna, Ferrara e zone limitrofe, anche in DAB, ma ci sono anche i podcast. Se andate sul sito della radio, nel link nel sito podcast, ci sono anche le mie trasmissioni in registrata. Detto questo, non mi rimane che farvi gli auguri, per chi vuole, di un Merry Christmas, e per tutti invece sicuramente un felicissimo 2025, anche se le promesse non sono veramente un granché. Comunque, a questo punto vi ringrazio per l'ascolto, vi lascio in compagnia dei Van der Graaf Generator, non prima dirvi che il brano che ci andiamo ad ascoltare è un super classico della band, si chiama Man Erg. Ciao a tutti da Nevio, buon anno! set roses glowing in my courtyard, play the pranksters of my youth. I saw a waiting old man in the gables of the room. As long as man lives.